sta bene così, guardare il mondo che passa. Se poi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì, un minimo di interesse. Se a voi sta bene così, chi leva e chi mette. Sta bene così, guardare il mondo che passa. Se a voi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì, un minimo di interesse. Se a voi sta bene così, chi leva e chi mette.